Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La Regione Campania chiede provvedimenti più rigorosi, non meno rigorosi. La Campania è contraria al rilassamento, all'apertura della mobilità, a tutte queste manfrine alle quali stiamo assistendo, i comuni grandi, i comuni piccoli. Che dobbiamo fare a Natale, alla vigilia, a Capodanno? Dobbiamo sapere che in questa settimana, in queste due settimane, noi ci giochiamo il futuro del nostro paese. Dobbiamo avere il coraggio di dire ai nostri concittadini che quest'anno Natale, Capodanno non esistono. Parola, care ascoltatrici, cari ascoltatori, di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nella sua consueta conferenza stampa del venerdì. Ha detto: Natale e Capodanno quest'anno non esistono, in queste due settimane ci giochiamo il futuro del nostro paese. E sapete che questo argomento è centrale negli ultimi giorni nel dibattito politico, con non solo l'opposizione che chiede maggiore libertà di mobilità nei giorni tra il 21 e il 6 gennaio, ma in particolare i giorni del 25-26 dicembre e 1 gennaio, ma anche all'interno della maggioranza ci sono state pressioni da questo punto di vista, tanto che oggi Conte ha deciso e ha detto: va bene, allora il Parlamento si assume la responsabilità di fare questa scelta, di prendere questa decisione. Ne parleremo in modo approfondito, così come anche delle reazioni sul recovery fund e gli accordi raggiunti in Europa dal Presidente del Consiglio Conte, quindi dal governo italiano, con anche i duri attacchi da parte di Renzi, che pure fa parte di questa maggioranza. E poi, a proposito del passaggio delle regioni da vari colori, più diciamo in zone a rischio a quelli più bassi, quindi dalla rossa, arancione a gialla, sono arrivate le ordinanze in questo stesso istante in cui è partita la diretta di Effetto Notte, e adesso ve le dico direttamente tra poco nei titoli, poi ci sarà la sintesi della giornata, e vi ricordo per i vostri commenti sempre pagina Facebook di Effetto Notte oppure 349-238-6666, dove potete anche dire cosa pensate appunto di una maggiore elasticità nella mobilità in quei giorni cruciali, oppure come molti dicono, insomma, e come ha detto anche Vincenzo De Luca, scusate, ho fatto questa crasi tra i due, bisogna dimenticarsi, insomma, di troppe libertà Natale e Capodanno per quella che è la situazione. L'andamento del coronavirus in Italia: sono 18.727 i positivi ai test nelle ultime 24 ore, le vittime sono 761, e l'Istituto Superiore di Sanità nel suo monitoraggio settimanale raccomanda non allentare misure neppure per la mobilità. Spostamenti a Natale, Conte annuncia, deciderà il Parlamento, ed è notizia di questi istanti che Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte da domenica diventano gialle, mentre l'ordinanza dell'Abruzzo è stata c'è stato il ricorso del governo, e il TAR ha dato ragione al governo, quindi torna rosso l'Abruzzo, sarà arancione dal 13 dicembre. E poi caso Regeni, quasi certamente cancellati i video con Giulio, prelevato dai servizi segreti egiziani, accuse gravissime per il presidente della Camera Fico, che chiude per quanto riguarda la Camera i rapporti diplomatici con l'Egitto. Le persone dell'anno secondo il settimanale Time sono il presidente americano eletto Joe Biden e la sua vice Kamala Harris. La morte di Paolo Rossi, migliaia in coda allo stadio di Vicenza per la camera ardente del campione, aumentano le adesioni alla campagna di Radio 24 dedicare a Pablito il titolo di capocannoniere di Serie A. Partiamo quindi dai dati aggiornati sull'epidemia di Covid-19 in Italia. Sono 18.727 i positivi ai test per il coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute, e le vittime sono sempre numero alto, 761. I tamponi effettuati sono 190.416, quasi 20.000 in più rispetto a ieri, e il tasso di positività è del 9,8%, stabile rispetto a ieri. Ma l'Istituto Superiore di Sanità, l'IS, nel suo monitoraggio settimanale raccomanda non allentare le misure neppure per la mobilità. E nel frattempo l'annuncio del commissario all'emergenza Arcuri al via il bando per il reclutamento di 3.000 medici per i vaccini. Sarà intanto il Parlamento a decidere sugli spostamenti fra comuni nel giorno di Natale del 26 e del primo dell'anno. Lo ha fatto sapere il Presidente del Consiglio Conte nel giorno in cui appunto è previsto il passaggio di alcune regioni in zona gialla, e la notizia è arrivata proprio appunto istanti fa, pochi istanti fa, lo ripeto. L'ordinanza di Speranza prevede che passeranno dalla zona arancione alla zona gialla domenica Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. L'ordinanza sarà in vigore dal 13 dicembre, e poi l'Abruzzo che torna rosso e poi arancione dal 13 dicembre. Insomma, un passaggio un po' particolare. Vediamo di aprire questa agenzia, di vederla meglio dal punto di vista epidemiologico. L'Abruzzo andrà in area arancione dal 13 dicembre. Decisione di oggi del TAR regionale sospende l'ordinanza del presidente Marsilio, giudicata illegittima, che la faceva passare direttamente all'area arancione, invece torna rossa e poi il 13 dicembre. Insomma, una cosa, diciamo, un po' macchinosa, però è così. Diciamo, per seguire un po' i protocolli. E buone notizie arrivano per la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, che ha ripetuto due volte il tampone risultato per due volte negativo. Dunque è stato un errore il risultato del tampone positivo, che aveva visto la ministra abbandonare all'improvviso il Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda l'Europa, quasi 30.000 invece sono i contagi registrati in Germania, con quasi 600 vittime. Il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer chiede che il lockdown duro in Germania scatti subito, non dopo le vacanze di Natale. La Germania è in semi-lockdown dal 2 novembre. In Francia invece la notte di Natale sarà senza limitazioni, ma a San Silvestro ci sarà il coprifuoco, su cui vigileranno 100.000 poliziotti e gendarmi. Torniamo a parlare del caso Regeni. Abbiamo parlato ieri ampiamente. Il giorno dopo la chiusura d'indagine da parte della Procura di Roma sul caso Regeni, nuovi dettagli emergono dagli atti, mentre il presidente della Camera, Fico, conferma lo stop ai rapporti col Parlamento egiziano. Lo hanno seguito per giorni, prima di portarlo nella stanza numero 13. Per giorni, ufficiali della National Security egiziana hanno pedinato Giulio Regeni prima di portarlo laddove sarebbe stato a lungo torturato e alla fine ammazzato. Si compone pezzo dopo pezzo, dagli atti di chiusura d'indagine della Procura di Roma, il quadro delle ultime ore di vita del ricercatore italiano, e davanti a questi elementi il presidente della Camera conferma lo stop dei rapporti diplomatici tra Montecitorio e Parlamento egiziano. Siamo stati sconcertati, spiega Roberto Fico in un'intervista ad Al Jazeera Arabic, da quello che hanno scritto i magistrati. Accuse gravissime, parole agghiaccianti. Per questo, come già in atto dal novembre 2018, si conferma l'interruzione delle relazioni diplomatiche. I genitori di Giulio Regeni tornano a chiedere invece il ritiro dell'ambasciatore, ma su questo il Premier non si pronuncia. Il governo, dice invece Giuseppe Conte, valuterà ogni iniziativa per la verità. Quattro gli agenti della National Security egiziana accusati della morte del giovane italiano. Per un quinto la procura chiede l'archiviazione, e proprio in questo atto si ricostruisce l'ipotesi verosimile, scrivono i PM, che siano stati cancellati i video della metropolitana del Cairo. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tensioni, parliamo di politica, tensioni nella maggioranza che restano alte. Il presidente Consiglio Conte di fatto apre alla verifica di governo, e di questo parleremo tra poco nel corso di questa puntata. Intanto a Bruxelles si è conclusa, lì era Conte oggi, la due giorni del Consiglio Europeo, risolti i principali nodi. Intesa su Italia e le emissioni inquinanti, via libera a MES e Recovery Fund verso sanzioni alla Turchia. La due giorni di vertice comunitario centra gli obiettivi minimi, salvando così la presidenza europea della cancelliera tedesca Merkel. Recovery Fund samt dem Konditionalitätsmechanismus. Ora dobbiamo accelerare sull'erogazione dei finanziamenti, incita la Merkel, guardando i 750 miliardi del fondo per la ripresa, mentre sull'accordo climatico la cancelliera mostra ancora maggiore soddisfazione, un programma che ci traghetta nel futuro e che ci porta al vertice ONU con una posizione unica. È valsa la pena non dormirci una notte, scherza, ma non troppo. I 27 paesi hanno trovato l'intesa per un taglio delle emissioni inquinanti pari al 55% entro il 2030, 15 punti in più rispetto all'obiettivo precedente, ma hanno dovuto sopportare fino a notte fonda l'ostruzionismo polacco, che chiede sostanzialmente più soldi in cambio del rinnovamento energetico. Sulle possibili sanzioni alla Turchia, Grecia e Cipro strappano solo un impegno a tornare su una loro implementazione in primavera. Il no tedesco, che non vuole rovinare le relazioni commerciali. Un no che incassa il plauso soddisfatto di Ankara. Infine, appello dei 27 alla Libia affinché rilasci immediatamente i pescatori italiani trattenuti da settembre. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come ogni poco ci ritroviamo a parlare dell'ennesimo femminicidio a Novilara, frazione di Pesaro, nelle Marche. Un uomo ha tagliato la gola alla moglie e poi si è lanciato dalle mura dell'antico borgo. I carabinieri si sono accorti della morte violenta della donna uccisa dal marito quando sono andati a casa per avvertire la famiglia. Lui è un pluripregiudicato, era uscito dal carcere 15 giorni fa per spaccio, ma era stato anche denunciato in passato per violenze domestiche. La coppia aveva due bambine. E a proposito della sentenza di due giorni fa, ne abbiamo parlato molto qui effetto notte, dell'uomo che è stato assolto, l'omicida, ha ucciso la moglie a Brescia un anno fa perché in preda a delirio di gelosia, così hanno motivato i giudici la sua assoluzione, ha creato proteste, polemiche, assolto dalla Corte d'Assise di Brescia, Antonio Gozzini, docente in pensione di 80 anni che appunto un anno fa in un appartamento nella zona nord di Brescia uccise la moglie Cristina Maioli, 62 anni, insegnante di scuola superiore. Bene, oggi c'è stata... c'è la testimonianza, viene il racconto del figlio di una vicina di quest'uomo che dice: non è stato un raptus, non è stato un episodio isolato, io lo conoscevo quel Gozzini, era una persona aggressiva, aveva continuamente atteggiamenti violenti. È un vicino di casa, Francesco Catalano, descrive così Antonio Gozzini, l'uxoricida. Gozzini dice: abitato per 4 anni fino al 2008 nel condominio in cui vive tuttora mia madre, in quel periodo fu protagonista lui di atteggiamenti molto aggressivi nei confronti degli altri condomini, soprattutto di persone più deboli, spesso aveva reazioni violente a seguito di discussioni anche banali, tanto che un'amministratrice si dimise a causa del suo atteggiamento persecutorio, racconta sempre il vicino. E dice: anche mia madre ha fatto diversi dispetti, una volta la sbatté contro il muro, se la prendeva con chiunque non appoggiava le sue posizioni. Mi ricordo bene, conclude, che non se la prendeva con tutti ma sceglieva chi attaccare, nel mirino finivano quelli che non potevano difendersi. Chissà se questa testimonianza potrà servire in qualche modo ad approfondire ulteriormente questa sentenza che ha promesso ieri qui effetto note di approfondire Valeria Valente, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio. Sentiamo anche un passaggio di quello che ha detto. Aspettiamo ovviamente come sempre di leggere anche le motivazioni di questa sentenza. Sicuramente massimo rispetto per l'operato della magistratura, non ci sogniamo di commentare la sentenza, però una cosa ci sentiamo assolutamente di dirla, che approfondiremo questa vicenda che ci sembra vada davvero oltre l'immaginabile, perché sostanzialmente ci riporta in un clima, in un quadro che ricorda tanto la giustificazione del delitto d'onore. Il punto non è ritenere una persona incapace di intendere e di volere, ci può stare, ma pensare che la gelosia possa determinare questa incapacità di intendere e di volere, ecco, questo sicuramente ci lascia più che una perplessità. Noi quindi ci impegniamo ad approfondire e a capire, perché sinceramente pensiamo che, questo non lo dico solo relativamente a questa sentenza, ma tante pronunce che purtroppo ci lasciano diverse dubbi, il tema resta per noi la specializzazione dei magistrati e soprattutto dei consulenti. Parliamo del Ponte Morandi. Per il Ponte Morandi vennero redatti falsi report sulle ispezioni, sulla valutazione di sicurezza richiesta dall'ordinanza del Presidente del Consiglio e sulle verifiche di sicurezza antisismiche, mentre ASPI, la società autostrade, ha detto bugie al Ministero dei Trasporti sul reale stato di patrimonio del patrimonio autostradale. Lo scrivono i giudici del riesame nelle motivazioni alla revoca dei domiciliari a Paolo Berti, ex direttore delle operazioni centrali di ASPI, disponendo l'interdittiva per 12 mesi. In più è stato artatamente inquadrato come intervento locale il progetto di retrofitting, cioè rinforzo delle pile 9 e 10, con elusione dei controlli e avallando affermazioni non veritiere. Passiamo all'intesa fra ArcelorMittal e Invitalia per la nuova Ilva di Taranto. Per noi è carta straccia, commenta il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. Contraria anche la regione, che parla di un accordo che non tutela la salute dei tarantini e l'ambiente. ArcelorMittal e Invitalia per lo Stato puntano al rilancio dell'ex Ilva e del polo di Taranto. Ci sarà l'idrogeno e realizzeremo il progetto più avanzato e serio di transizione energetica, dichiara il premier Giuseppe Conte. Nel 2025, a piano industriale concluso, l'obiettivo è quello di una fabbrica che ha ridotto di molto le emissioni inquinanti e con una produzione di acciaio competitiva. In due tranche, a gennaio prossimo e a maggio del 2022, Invitalia parteciperà all'operazione versando complessivamente 1 miliardo e 80 milioni per avere alla fine il 60% della società. ArcelorMittal verserà invece 70 milioni ed avrà il 40. Sarà necessario il dissequestro degli impianti dalla magistratura, il che oggi è un punto interrogativo. Occupazione garantita per i 10.700, ma a fine piano, perché per alcuni anni ci sarà la cassa integrazione. I sindacati valutano bene il ritorno dello Stato, ma chiedono garanzie su ambiente e lavoro. La città di Taranto reclama risposte serie dopo un'attesa infinita e il sindaco protesta per il mancato coinvolgimento. Quel che è certo certo che l'accordo non chiude la storia, ma apre un percorso in salita. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto. E adesso parliamo della scelta del settimanale Time, settimanale più diffuso negli Stati Uniti e nel mondo. Joe Biden, presidente eletto, la sua vice Kamala Harris sono la persona dell'anno di Time. Il presidente americano e la sua numero due hanno conquistato l'ambita copertina che dal 1927 ogni dicembre il magazine americano attribuisce alla persona che nel bene o nel male ha segnato l'anno che sta per concludersi. L'annuncio è arrivato oggi in uno speciale della NBC. Biden ha battuto il presidente uscente Trump, l'epidemiologo Anthony Fauci, insieme ai lavoratori essenziali, medici e gli infermieri della risposta al Covid e al movimento Black Lives Matter. Per chiudere, torniamo sulla morte di Paolo Rossi. Oggi Pablito è tornato a Vicenza, città che lo lanciò nel grande calcio. Migliaia le persone che gli stanno rendendo omaggio alla Camera Ardente allestita allo Stadio Menti. I funerali saranno domani alle 10.30 nel Duomo di Vicenza. Intanto sta raccogliendo sempre più adesioni la campagna lanciata da Radio 24 per dedicare a Rossi, a partire già da quest'anno, il titolo di capocannoniere della Serie A, con un trofeo dedicato a Pablito che consacri da ora in avanti il bomber di ogni stagione nella massima serie. Proposta che trova il consenso anche del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. Sentiamolo oggi al microfono di Dario Ricci. Un bel gesto, il cannoniere di tutti i tempi, un calciatore, un professionista, un uomo che in pochissime ore ha raddoppiato, diciamo, sotto l'aspetto proprio del digital, un altro campione scomparso da qualche giorno come Diego Armando Maradona. La dice lunga in tutto quello che lui ha rappresentato nel cuore degli italiani e quello che oggi ancora di più lui rappresenta. Quindi lo ritengo un gesto doveroso, quindi non solo favorevole, ma anche doverosamente favorevole. E io personalmente sarei favorevole anche a dedicargli uno stadio, visto che a Maradona giustamente è stato dedicato quello di Napoli. Ne abbiamo parlato qua con l'assessore allo sport di Napoli nei giorni scorsi, insomma, visto che per l'Italia rappresenta veramente il calciatore dei calciatori. Ci sentiamo tra pochissimo dopo la viabilità. 349-238-6666 il numero per i vostri WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Note, sempre per i vostri commenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci qua, 60 minuti ricchissimi di notizie e aggiornamenti in diretta e adesso gli approfondimenti con gli ospiti. Sempre con voi Roberta Giordano e leggo vari messaggi, insomma ognuno dal proprio punto di vista, contrastanti, mentre per esempio dice questo ascoltatore, questa volta De Luca, presidente della Regione Campania, che ha detto non esiste Natale, non esiste Capodanno, siamo contro misure morbide, dice, perché qui ci giochiamo il futuro del nostro paese, dice questo ascoltatore, questa volta De Luca ha proprio ragione, ci giochiamo il futuro del paese in queste feste, dice, mentre un altro dice, cara Roberta, non ne posso più del paternalismo di De Luca, dei nostri governanti che concedono, permettono, acconsentono come dei novelli Re Sole. Beh, al di là di essere d'accordo con De Luca o le decisioni del governo, insomma, mi pare che il governo, volente o nolente, con tutti gli errori possibili, sta cercando di guidare il paese in mezzo alla tempesta ormai da quasi un anno, insomma, non è che concedono o permettono, tutti vorremmo più libertà, io in prima persona proprio nel modo più assoluto, però avete sentito anche oggi il numero dei morti, ecco, poi magari lo ricordiamo nel corso della puntata. Benvengano tutte le proposte per migliorare la capacità amministrativa dello Stato. Quello che sicuramente va chiarito è che questa struttura non vuole, ma direi proprio non può, esautorare la responsabilità di tutti i soggetti attuatori dei singoli progetti, che saranno amministrazioni centrali e periferiche. Noi abbiamo però bisogno sicuramente di una cabina di monitoraggio, altrimenti perderemo soldi. La cabina di monitoraggio senza la quale perderemmo soldi, dice il presidente del Consiglio Conte. E cos'è questa cabina di regia? È in pratica la struttura piramidale che Conte ha immaginato per gestire e spendere i fondi europei, i recovery fund che arriveranno all'Italia. Quindi cabina di regia che dovrebbe essere così formata: Conte all'apice, subito sotto di lui i ministri Gualtieri dell'economia, Patuanelli dello sviluppo economico, Amendola degli affari europei, poi sotto sei super manager presi senza concorso, sotto di questi dai 60 ai 300 tecnici, insomma. E per questa struttura, questa cabina di regia immaginata da Conte, sta creando non pochi contrasti nel dibattito politico, non solo con l'opposizione ma anche proprio all'interno della stessa maggioranza. C'è un forte braccio di ferro a partire da Renzi di Italia Viva, che sempre fa parte appunto di questa coalizione, che ha attaccato duramente Conte e ha anche minacciato la crisi di governo. Intanto saluto la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Cara Barbara, buonasera a tutti. Allora Barbara, ti farei sentire alle ascoltatrici e agli ascoltatori Renzi, che ieri diceva no alla task force, questa task force che sarebbe appunto questa struttura composta da manager, tecnici, eccetera. Sentiamo. Colleghi del Partito Democratico, eravamo insieme nello stesso partito quando 2 anni fa uno di noi addirittura firmò un ricorso alla Corte Costituzionale contro la scelta del governo di non farci discutere la legge di bilancio. Se una cosa la fa Salvini è sbagliata, non sempre, spesso, ma questo è un altro discorso. Ma guardate che se la facciamo noi ed è la stessa, è sbagliata lo stesso, eh. E sentiamo appunto anche la minaccia da parte di Renzi di non votare la legge di bilancio se ci dovesse essere un emendamento che riguarda questa task force. Se c'è un provvedimento che tiene la governance del Next Generation EU e se c'è un provvedimento che tiene la fondazione dei servizi segreti, noi votiamo contro. E lo diciamo con molta lealtà. Lo diciamo prima e invitiamo tutti a fermarsi finché siete in tempo. Allora Barbara, ha ragione chi parla di incostituzionalità rispetto a questa struttura proposta che esautorerebbe il Consiglio dei Ministri e il Parlamento, oppure Conte ha paura di essere esautorato lui stesso o di essere, insomma, o che ci sia un assalto alla diligenza visto che arriveranno tutti questi soldi dal Recovery Fund, oppure Conte teme di non riuscire a spendere i soldi come spesso succede all'Italia per quanto riguarda i fondi europei che spesso sono stati rispediti indietro, no? Allora, diciamo che tutte queste ipotesi che tu hai fatto sono corrette, nel senso però valgono tutte, cioè vale anche il fatto che si sta pensando, cioè la presidenza, il Presidente del Consiglio sta pensando all'ennesima nuova struttura all'interno comunque di un'amministrazione e di un governo, cioè qualcosa di diverso rispetto al governo, cioè è come Renzi ha parlato di un governo nel governo. Ora è chiaro che il leader di Italia Viva ha anche un interesse politico a stressare questo tema, però non c'è dubbio che lascia pensare questa scelta di mettere nelle mani di pochissime persone la decisione sul che fare di questi 200 miliardi, perché poi di questo stiamo parlando. Dall'altra parte è vero però quello che tu ricordavi, e cioè che noi siamo il paese in Europa peggiore, peggio anche della Grecia, per quanto riguarda l'utilizzazione dei fondi comunitari. Già. Cioè fino adesso noi abbiamo speso la metà di quello che ci viene dato, e siccome non è che noi ci danno 209 miliardi, noi continuiamo a ripetere questa cifra, ci daranno dei soldi fino a 209 miliardi, ma sulla base dei progetti, cioè vanno presentati dei progetti e poi ci saranno gli stati di avanzamento dei singoli progetti e i soldi ti vengono dati sulla base di questo, non è che ti danno l'anticipo, tu ti tieni i soldi, poi ci fai quello che ti pare. Quindi la preoccupazione di Conte da questo punto di vista non è legittima, è più che legittima. Detto questo però, anche a me la struttura che lui ha in mente non mi convince per niente. Allora, qual è il tema? Il tema è che la scelta deve essere trasparente, ci devono essere delle, anche perché immaginate quello che succederebbe tra la struttura di Palazzo Chigi con i manager e poi comunque saranno le amministrazioni a dover far marciare le cose, no? Cioè non è che questa struttura potrà fare tutto da sola, avrà comunque bisogno della pubblica amministrazione, quindi se tu non coinvolgi poi anche tutto l'apparato burocratico, l'apparato ti rema conto. incontro, perché non è che può prendersi soltanto gli oneri e non anche gli onori. Quindi è evidente che c'è un tema che non è complesso e che è storico, perché purtroppo in Italia la pubblica amministrazione sono decenni che non funziona, vuoi per i tagli, vuoi per la mancanza, come dire, anche di un turnover generazionale. Abbiamo pubblica amministrazione di persone anziane, quindi è chiaro che abbiamo visto adesso le difficoltà che poco ci sono tecnologiche state, anche, no, diciamo, per dirla molto così in parole semplici, no, Barbara? Beh, pensiamo a tutte le difficoltà che, cioè, l'abbiamo visto, no? Cioè nel pagamento della cassa integrazione, nell'elargizione dei vari bonus, dei ristori, cioè c'è stata una difficoltà enorme, e non è che il governo non voleva pagare, ma neppure le pubbliche, non è che le pubbliche amministrazioni non volevano pagare, non erano proprio in grado, forse è addirittura peggio, no? Perché se uno non vuole, almeno ha un interesse a non fare una cosa, se invece non è in grado, o perché non è capace, o perché non ha gli strumenti succedono adatti, dei pasticci, insomma, spesso e volentieri è ancora peggio. Barbara, allora, intanto Conte insiste sulla task force, dice serve per il monitoraggio, ma non esautora nessuno. Ma al di là di questo, invece, sul rischio effettivo di una crisi di governo, perché sembra che Renzi abbia fatto una non tanto velata minaccia, sentiamo che cosa ha detto poco fa a 8:30 sulla 7 Orlando, che è Andrea Orlando, che è il vice segretario del Partito Democratico. Quando si schiaccia l'acceleratore si sa dove si inizia, non si sa dove finisce. Io credo che questa volta sarebbe più drammatica la situazione, perché non vedo un altro scenario politico diverso da questo. Quindi noi semplicemente rischieremmo di aprire una crisi con un'incerta soluzione nel momento in cui l'Italia è chiamata a gestire i miliardi che arrivano dal recovery. E a questo proposito Mattarella, Presidente della Repubblica, di nuovo fa il suo appello all'unità, alla collaborazione. L'Unione Europea è stata capace di un salto di qualità, per qualcuno inatteso, ma che trae origine proprio dai suoi valori costitutivi e fondativi. Il Next Generation e il Recovery Fund offrono grandi opportunità che non possiamo disperdere, così come non possiamo accettare che i flussi nazionalistici fuori tempo ne rallentino o intralcino il cammino. Quindi Barbara, in sintesi, si può pensare di andare a elezioni anticipate nel caso appunto cadesse questo governo in un momento come questo? Molto bene. Diciamo che ti metto oltre alla frase di Orlando, questo era quello che c'era dietro le parole di Orlando, no? Come dire, attenzione, perché sì, Renzi vuole provoca la crisi, ma poi lui pensa che non si va a votare e invece ma si cambia la maggioranza. Ecco, però abbiamo visto anche nelle ultime ore che anche Salvini si sta muovendo, che ha indossato i panni del moderato. Salvini va a parlare con Conte, si torna a dire che lui è pronto al confronto, tant'è che si è notata una certa irritazione da parte della Meloni, che invece già ha detto io non voglio far parte di nessun governo, non governerò mai col PD e il Movimento 5 Stelle, perché Salvini ha lasciato intendere che se fosse un governo che portasse alle elezioni, io vedo un, come dire, cioè ci sono dei movimenti, no? Perché Salvini sta cercando di uscire in qualche modo da un isolamento in cui si è ficcato un po' da solo dalla crisi di governo dell'estate scorsa. Renzi vive una crisi perché Italia Viva di fatto non è decollata e quindi cerca spazi di manovra, cioè Renzi ha bisogno, come dire, di un palcoscenico e di mostrare i muscoli, perché altrimenti non va da nessuna parte, e quindi sta tentando, come dire, di recuperare degli spazi che fino adesso non ritiene di non aver avuto e quindi sta facendo una sua partita. E poi tutto questo possa portare a una crisi di governo in questo momento, io sinceramente ci credo poco, perché siamo in piena sessione di bilancio. Certo, una volta superata la finanziaria, a gennaio potrebbe anche accadere. Però qui vorrei dire una cosa, che secondo me lo deciderà il Covid, il futuro anche politico del paese. Purtroppo. Perché noi, come tu ricordavi poc'anzi appunto, noi siamo ancora con centinaia e centinaia di morti al giorno, Stiamo vedendo che in Germania l'epidemia ha cominciato a correre in anche modo lì, molto con la Merkel che aveva le lacrime agli occhi ieri o l'altro ieri. Barbara, però siccome stiamo chiudendo, voglio sapere cosa ne pensi del fatto che dopo queste pressioni per rendere più morbida la mobilità nei giorni cruciali delle festività, il governo a un certo punto chiama il Parlamento a decidere e dice si assumerà la responsabilità delle eventuali deroghe. Siccome vedo tanti messaggi degli ascoltatori, qualcuno che dice si tratta di spendere 200 miliardi di recovery fund, sostituisce il Parlamento con 300 consulenti, ma se si tratta di decidere se possiamo uscire dal confine comunale, il Parlamento è sovrano. Poi qualcuno dice, ha ragione De Luca a dire che bisogna chiudere tutto, che ci giochiamo il futuro del paese in questi giorni. Mentre ma amico, guarda, Roberta, a me fa molto come sintesi, dire, molto mi fa sorridere, Barbara. Mi fa anche rabbia, no? Adesso siamo diventati noi italiani tutti pronti sul Natale, il nonno da solo, a parte che sappiamo benissimo che il nonno da solo può tranquillamente si può andare tranquillamente a trovarlo, perché il governo l'ha anche spiegato nelle FAQ. Se quindi, non è autosufficiente, certo. Sì, ma non autosufficiente non è che si intende che per forza sia su una sedia a rotelle, significa una persona per anziana la spesa, è quasi di farmacia, per sé non autosufficiente. E quindi voglio dire, tu dalla tua mamma da Milano ci potresti tranquillamente andare a legislazione attuale, nonostante il divieto. Quello che però sta avvenendo è che c'è una pressione molto forte sul governo, e secondo me Conte dice bene quando dice allora decide il Parlamento, perché qui c'è sempre uno scaricabarile anche da parte dei politici di maggioranza, di opposizione. Chiaro. Di dire poi no, noi l'avevamo detto. È colpa tua, è colpa sua. Barbara, ci dobbiamo proprio lasciare, sento il tuo naso chiuso, stai attenta al freddo, dopodiché ti dico, hai messo le lucine di Natale sui balconi, che per me sono una cosa sacra sì, questa, per dare un po' di colore, un po' di calore. Di Natale ovunque, ti abbraccio. Almeno per illuminarmi un po'. Illuminare te e illuminare gli altri. Ti abbraccio, grazie Barbara Fiammeri, a presto. Grazie a voi, buonasera. Ciao Barbara. Breve pausa di riflessione, voi continuate con i vostri messaggi, torno ratta come la folgore. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete da tempo, siete al posto giusto, nel momento giusto, e prosegue Roberto Giordano con voi con gli approfondimenti, con gli ospiti. Abbiamo parlato ampiamente della pagina politica e a questo punto ritorniamo sulla questione strettamente legata al coronavirus, il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute. Giovanni Rezza del Ministero della Salute ha detto: questa settimana si osserva una leggera diminuzione dell'incidenza dei casi di Covid-19, però rimane elevata, intorno a 450 casi per 100.000 abitanti, dice, quindi è necessario che i cittadini continuino a mantenere comportamenti estremamente prudenti. Mentre l'Istituto Superiore di Sanità dice l'incidenza è ancora troppo elevata e l'attuale forte impatto sui servizi sanitari richiedono di attendere prima di considerare un rilassamento delle misure di mitigazione, comprese quelle della mobilità. Allora voglio coinvolgere il professor Nino Cartabellotta, che torna con Effetto Notte, e lo ringrazio per la disponibilità. Buonasera professore. Buonasera Roberta, buonasera a tutti i radioascoltatori. Presidente di Fondazione GIMBE, che è la fondazione senza fini di lucro, lo ricordo, che ha lo scopo di favorire la diffusione e l'applicazione delle migliori evidenze scientifiche. Professore, cosa ne pensa? A questo punto il governo, pressato da ogni parte, ha deciso di delegare al Parlamento la responsabilità di eventuali deroghe per la mobilità nei giorni cruciali delle feste natalizie. Ma guardi, a me sembra una polemica politica molto stucchevole, tenendo conto della situazione. Abbiamo 700.000 casi attualmente positivi, facciamo 5.000 morti la settimana, gli effetti delle misure restrittive si vedono, ma in maniera molto limitata, come anche l'Istituto Superiore di Sanità oggi ha documentato. Gli ospedali sono ancora saturi, 15 regioni sono sopra la soglia dei ricoverati, 45% della terapia intensiva e 38%, e soprattutto ci troviamo in una fase dell'anno in cui rischia di innescarsi la cosiddetta tempesta perfetta, perché abbiamo ancora davanti 3 mesi d'inverno, l'influenza non è ancora arrivata, ci si aspetta che sia di minore impatto rispetto agli anni passati, ma ancora non sappiamo quale sarà l'impatto dell'influenza. E un po' questa Italia che diventa tutta gialla e le pressioni che le regioni fanno per le riaperture, il periodo natalizio, in qualche maniera sta infondendo, diciamo, da un lato un ottimismo che, per carità, per le feste ci sta sempre, però avviene in un momento molto molto critico. Le curve stanno scendendo tutte, ma stanno scendendo molto lentamente e ci avviciniamo, come dicevo, a una fase, diciamo, molto critica dal punto di vista stagionale. Quindi il malato è ancora in terapia intensiva, il malato è inteso come paese Italia nella pandemia, quindi non bisogna consentire riacutizzazione di sorta, perché rischiamo che la terza ondata si innesti durante la fase di discesa della seconda, e questo può essere un problema poi a partire dalla metà di gennaio in poi. Infatti non dimentichiamocelo che appunto ci attende dietro l'angolo la terza ondata, e arrivare preparati con il sistema sanitario alleggerito e noi prudenti certamente gioca a nostro favore, al di là appunto che dicevo che con l'ordinanza del ministro Speranza Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte dal 13 dicembre a domenica tornano gialle. Professor Cartabellotta, lei è sempre sintetico, estremamente incisivo. Grazie davvero per il suo lavoro. Grazie a voi. Buona Grazie serata. Professore, a lei. E vi lascio al reportage del venerdì, ci sentiamo subito dopo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Euro reportage. Economia circolare. La fase 2 dell'Europa di Silvia Bernardi. Estrarre, produrre, utilizzare e gettare è il modello dell'economia lineare, quello che abbiamo usato fino a qui e che continuiamo ad usare per la maggiore. Perché dei 92,8 miliardi di tonnellate di materiali immessi nel ciclo economico globale, nel 2018 ne sono stati riciclati solo 8,4 miliardi, ovvero il 9,1%. Un dato sceso al 9% lo scorso anno e precipitato adesso ancora più in basso, all'8,6%. Questo significa che di tutti i minerali, combustibili fossili, metalli e la biomassa che vengono digeriti ogni anno dal nostro sistema economico, solo l'8,6% viene riciclato. Lo dice il Circularity Gap Report, che è nato proprio per misurare la performance a livello globale, lanciato a Davos, che documenta anche il fatto che le risorse minerali estratte ogni anno dall'ambiente per uso umano non sono mai state così tante. È necessario che questa strada lineare curvi. E lo faccia anche velocemente. Lo dice l'ONU con l'Agenda per lo Sviluppo Sostenibile, lo dice l'Europa con il Green New Deal, lo dice il Papa con l'enciclica Laudato Si. Sono tutti d'accordo sulla necessità di un'economia circolare basata sul principio delle tre R: riduci, riusa, ricicla. Bene, fatti salvi i principi, è davvero possibile farlo? Lo chiediamo a Francesco Bruno, professore ordinario di diritto ambientale dell'Università Campus Biomedico di Roma. Innanzitutto ci sono alcuni dati che sono molto chiari. Più del 60% della gestione dei rifiuti speciali, ossia industriali, insomma di origine d'attività produttiva, non quelli urbani, sono in qualche modo riutilizzati. Quindi o sono riciclati o sono addirittura riutilizzati come sottoprodotti. E questo avviene addirittura in Italia, la quale è un centro d'eccellenza, una punta d'eccellenza per quanto riguarda l'economia circolare. Quindi questo è un dato significativo ed è soprattutto in fortissima espansione se noi vediamo gli ultimi 5 anni. Dopodiché abbiamo una situazione di fortissima implementazione di fonti alternative, energie alternative, che aiutano questo tipo, diciamo, di autoutilizzo del sottoprodotto, del rifiuto nelle imprese, nelle attività produttive, perché una parte di questi scarti, tra virgolette scarti, sono utilizzati a fini energetici, e quindi in questo contesto, diciamo, appunto, l'economia circolare assolutamente sta funzionando. Ma soprattutto quello che a me fa ben sperare sulla realizzazione nel prossimo decennio, direi, di una piena attuazione, un pieno appagamento della circolarità delle attività produttive, è il fatto che tutti quanti i vari soggetti appartenenti alle varie filiere di tutti i settori merceologici oramai dal basso sentono questa essere un'esigenza fondamentale della loro attività ordinaria. Però sì, nella mia esperienza, oramai tutti gli imprenditori, sia piccoli sia medi che grandi, si pongono il problema dell'utilizzo dello scarto, del rifiuto e di come rendere sostenibile la propria attività di impresa, anche perché mi sembra che si sia compreso che mancata sostenibilità significa mancato sviluppo. Finora Allora, la causa dell'economia circolare, concetto di cui si inizia a parlare negli anni 60, è stata sostenuta prevalentemente a livello locale dal settore privato e da qualche organizzazione non governativa. Circa il 62% delle iniziative che promuovono un'economia circolare ha sede in Europa e solo il 13% in America del Nord, mentre il restante 25% è sparso in Asia, America Latina e Africa. L'Europa è decisamente avanti e anche se complessivamente il 70% delle iniziative di economia circolare è stato attivato dal settore privato, la politica di Ursula von der Leyen è totalmente green. Il rilancio dell'economia circolare è uno dei pilastri del Green New Deal che festeggia il suo primo anniversario al vertice europeo, con l'approvazione da parte del Consiglio europeo dell'ambiziosa proposta per il nuovo obiettivo climatico dell'Unione europea, ovvero ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030. It will include clean, affordable and secure energy, the boosting of our circular economy, a farm to fork strategy and a biodiversity. Di fatto l'Europa oggi è entrata nella fase 2 relativa all'economia circolare. L'obiettivo della Commissione europea è ora quello di arrivare ad avere per ogni prodotto l'indice di riciclabilità, un'etichetta che indichi la quota di materiale riciclato usato per la realizzazione e quanto materiale si potrà riciclare a fine vita del prodotto. Entriamo nelle aziende e vediamo dove è possibile mettere in pratica questo processo circolare. La Celtec è un'azienda che commercializza stampanti 3D e raccoglie la plastica di scarto delle stampanti per riusarla per altri 20 cicli di stampa. Fino a qui la cosa non ci stupisce più di tanto. Ci sorprende però sapere che una volta ultimati questi 20 nuovi cicli di stampa, gli scarti vengono portati a un'azienda piemontese che ne ricava calze di nylon. Ce lo racconta Alberto Rizzi, amministratore delegato di Celtec. È stato per noi estremamente importante far coesistere quella che era la sostenibilità economica con la sostenibilità ambientale. Abbiamo tenuto come must il sistema delle 3R: riduci, riusa e ricicla. La tecnologia 3D infatti permette di realizzare geometrie complesse che quindi necessitano di una minor quantità di materia prima e quindi riduci. Abbiamo utilizzato lo stesso materiale per più cicli di produzione e quindi riusa, e infine per raggiungere anche la terza R, quella del ricicla, abbiamo avviato un nuovo progetto pilota. Il progetto in particolare prevede il ritiro dai nostri clienti di quello che fino a ieri era solo un materiale di scarto di produzione per, in collaborazione con un'azienda piemontese, realizzare nuovi oggetti e dargli quindi nuova vita, ad esempio calze di nylon. Eccola la sintesi dell'economia circolare, un'alta tecnologia del terzo millennio che si unisce a un prodotto che fa parte dell'immaginario e della rinascita del dopoguerra. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, lo diceva nel Settecento Lavoisier, il padre della chimica moderna. Succede nei campi di barbabietole da zucchero. Gli scarti della coltivazione diventano concime per le nuove coltivazioni. CoproB è la cooperativa capofila nel settore delle barbabietole da zucchero e Timac Agro Italia, l'azienda del settore della nutrizione vegetale e dei servizi per l'impresa. Insieme hanno avviato un progetto di economia circolare. Pierluigi Sassi, amministratore delegato di Timac Agro Italia. Le filiere agroalimentari sono una fonte piuttosto importante di residui e di sottoprodotti che possono essere valorizzati nell'ambito di progetti di economia circolare. È in quest'ottica che insieme a CoproB abbiamo lanciato un progetto che si chiama Restituiamo Energia alla Terra e che consiste nel valorizzare attraverso delle tecnologie innovative un residuo di produzione dello zucchero da barbabietola. Ecco un altro principio dell'economia circolare, investire in un'agricoltura tecnologica ed efficiente nel pieno rispetto delle risorse naturali a disposizione. Quello che serve è cambiare approccio a partire dall'inizio. Un prodotto deve essere pensato per durare il maggior tempo possibile, per essere riparabile e alla fine dei suoi giorni essere scomposto, in modo che ogni sua parte trovi un altro utilizzo. Solo a sentirlo dire ci rendiamo conto di quanto sia diverso da quello che abbiamo fatto fino ad ora. Alla natura viene facile, lì il concetto di scarto non esiste. Per noi è più difficile, ma questo non vuol dire impossibile. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus. E a questo punto è tempo di sapere che tempo farà, e ce lo dice chi se non il nostro Paolo Corazzò di Trebi Meteo. Caro Paolo. Ma buonasera, ecco, buonasera Roberta, buonasera a tutti. Allora guarda, in realtà bisogna avere ancora un attimino di pazienza. Sì, perché poi arriva l'estate, questo vuoi dire, sì. Certo, pazienza, no? Sì. Allora, questo weekend sarà ancora molto variabile. Una perturbazione che adesso sta passando sul nord Italia e sull'alto Tirreno si farà sentire durante questo weekend, soprattutto al centro-sud. Guarda, domani saranno le regioni tirreniche, dalla Toscana fino ad arrivare giù alla Calabria e anche le isole maggiori, a vedere pioggia, acquazzoni e comunque ancora parecchie nuvole al centro-nord. Domenica invece è con netto miglioramento proprio nelle regioni centro-settentrionali. Ho quasi paura a dirlo, ma domenica vediamo il sole sul nord Italia dopo giorni grigi. Invece toccherà al sud avere domenica nuove piogge, nuovi acquazzoni, lì migliorerà lunedì. Quindi insomma ancora un po' di variabilità, però appunto un accenno di miglioramento c'è. Domenica sarà evidente nelle regioni centro-settentrionali, lunedì anche al sud, settimana prossima inizia con condizioni meteo buone, quindi insomma un po' di tregua si fa avanti, ci asciughiamo un po' nei prossimi giorni, teniamo duro, caro Roberto, che sto dicembre ci ha fatto dannare fino ad ora, ora magari ci lascia un pochino più in pace. Dai. Inguaribile ottimista, voi lo sentite già dalla voce, no Corazzon, che ha il sole dentro, anche se a lui piace il freddo, vero Paolo? Brava, esatto. Il nostro pinguino. Non ti dico, quando ho visto la neve settimana scorsa ero fuori di me, felicissimo come sempre. Non si tocca, ecco. Non si tocca la neve. Grazie Paolo Corazzon, buon tempo a te comunque sia. Ciao caro Paolo. Ciao, buon tempo a tutti, ciao. Ciao Paolo, ci aggiorniamo come sempre brevemente alle 22.